Ciao a tutti da Max Macchia per Nato 451 Frammenti Sonori in quella di Radio Città Fujiko, oppure altrimenti eccetera eccetera, 451 frammentisonori.noblogs.org. Questa sera o pomeriggio, mattina, insomma dipende da quando state ascoltando, dai fusi orari, sì, dove no, magari no, siete anche dall'altra parte del mondo, qua siamo dalle parti delle italiane, nord-ovest, nord-est, anzi d'Italia, e centro-nord-est, ecco, così lo mettiamo in una certa qual misura, poi magari qualche ironia, insomma, che faccio è legata anche a geografie ovviamente politiche che si spostano in termini nazionali di riflesso a quelli europei. Magari non succede il contrario, ma queste insomma sono altre come dire riflessioni rispetto appunto a quanto poi il voto europeo vada a ricadere poi in realtà sugli stati sovrani, non per forza sovranisti, ma questo insomma potrebbe essere anche appunto uno spunto di riflessione già sul fatto insomma che poi di fatto funzionano come pre-voto, ma ad esempio vedi la Grecia nazionale, oppure per magari spostare l'ago della bilancia governativa rispetto invece a quello che invece il discorso italiano. Faccio questo discorso qua per soprattutto per invitarvi a sottoscrivere la campagna di crowdfunding che sta tenendo la radio da circa una settimana, da giovedì, partendo dal fatto di non scegliere politicamente di non mandare spot elettorali legati soprattutto ai fascisti, alle formazioni neofasciste o fasciste di vecchia ora. Potrei aggiungere anche le forze che vengono chiamate fasciste in maniera grossolana, ma che poi di fatto sono fasciste, però bisognerebbe contestualizzarlo quando lo sono, eccetera eccetera, così avete capito anche a quale direzione del lago della bilancia mi stavo riferendo prima. Il problema insomma è che tanta, e storicamente tra l'altro è data anche questa cosa, tanta acqua appunto all'ideologia fascista passa attraverso il nazionalismo, e quindi la parola sovranista dovrebbe immediatamente portare a una riflessione rispetto a questo, e il nazionalismo è una forma della lotta di classe, della lotta di classe però dall'altra parte, ecco, o addirittura della contraddizione che porta appunto in seno questa spinta, e questo ha anche successo poi nazionalista. Di fatto comunque crowdfunding di Radio Città Fujiko, è servito già non appunto a prendere posizione antifascista e non mandare appunto gli spot elettorali alcune forze neofasciste o cripto, manco tanto i criptofasciste, ma poi di fatto serve come finanziamento rispetto appunto a un'indipendenza, qualcosa che di fatto si vuole mantenere, e anzi si vuole resistere appunto rispetto appunto alle orde nere, che appunto non sono semplicemente quelle con palesemente tali, ecco, più strisciante la faccenda anche molto più complessa, anche se poi di fatto insomma non deve coprirsi di una tale complessità tale da non essere intelligibile, anzi però forse la cosa da fare insomma è appunto resistenza, sì, ma tramite un'esistenza, e quindi una proposizione, e in questo caso insomma una proposizione che può sembrare paradossale visto dato l'anti, ma di fatto insomma lo è, già appunto a schierarsi ideologicamente e poi facendo di fatto insomma un boicottaggio seppur minimo e comunque prendendo e scegliendo una posizione molto chiara rispetto alle forze neofasciste, si resiste la proposizione insomma di qua appunto a venire rispetto a quello che può succedere in termini movimentisti, in termini insomma di lotta di classe, ecco, dall'altra parte, ecco, la forma della lotta di classe come appunto presa del potere da parte di chi non ha il potere, vabbè, e a parte insomma situazioni insomma descritte più o meno bene dal sottoscritto, ma d'altronde insomma cerco di fare delle sintesi che ogni tanto non vanno a cogliere, spero che questa insomma sia andata a cogliere e comunque vada in direzione perlomeno insomma nello specifico del crowdfunding di Radio Città Fujiko, che comunque trovate appunto il link per finanziare appunto la radio tramite appunto il sito, passando dal sito di Radio Città Fujiko. Dai primitivi all'elettronica, perché iniziamo con Futuro Antico, perché Riccardo Sinigaglia, prima di diventare uno dei punti di riferimento di un cantautorato anche per molti versi anche molto attuale, ecco, stavo per dire di moda, ma veramente per Sinigaglia sarebbe decisamente fuori luogo, visto che appunto inizia questo percorso eccezionale per molti versi appunto con i primi synth utilizzati con Futuro Antico alla fine degli anni 70 con Walter Maioli, storico musicista, etnologo, musicologo che porta avanti per molti aspetti quello che è una delle più grandi poi ricerche, delle più grandi esperienze italiane delle musicali di studio, ma non soltanto, quelle di Carpitella, di Lady, che addirittura andranno a influenzare anche un folk song con nome di Luciano Berio, ecco, per dirne una, quanto portarono avanti, e con Maioli addirittura attuale, poi collegamenti con Nadma, Living Music, beh, si va su quello che diventa controculturale anche, se non addirittura proprio antagonista in termini appunto di pastiche, quindi gioco, se vogliamo, appunto tra di diverse culture, diversi stili, ma diventa di fatto una ricerca che parte proprio dal suo essere fuori e dentro il tempo. Questa è la cosa incredibile, nel senso che si riesce a sperimentare poi di fatto insomma tramite comuni anche a sperimentare forme poi che sembrerebbero veramente primitive, poi per alcuni versi lo sono anche, ma con appunto una direzione, un'attitudine assolutamente legata appunto al futuro, al futuribile, a quello che appunto è in divenire, un'idea appunto di musica collettiva vissuta appunto tramite le comuni, soprattutto in quella di Toscana, ma anche appunto una musica che di fatto è una musica collettiva col suo idea cross culturale, unita appunto a un'elettronica, quindi a delle musiche di fatto futuristiche in termini appunto sia in termini temporali, stiamo parlando insomma della fine degli anni 70, primissimi anni 80, ma anche appunto in termini di linguaggio, di dialettica che si viene a creare poi tra appunto la cross-culturalità e appunto la sperimentazione elettronica. Sinigallia appunto con Maioli, unendosi poi con Gabin Dabiré, quindi anche qua un linguaggio che va a sperimentare varie tipologie, varie modalità, e soprattutto insomma va appunto a allargarsi in termini di capacità di sviluppare appunto percorsi inauditi, appunto con quell'idea primitiva, cioè, ovvero di forte originalità, anche di forte discorso legato a una sorta di suono originario, di appunto immaginativo in questo senso, ma in termini appunto collettivi, non di appunto comunitarismo così spicciolo, se vogliamo, che anche questo è passato per tanti percorsi, insomma, così che sono confluiti in facile New Age o addirittura insomma in comunitarismi anche piuttosto ambigui, ecco. E qua invece c'è proprio un percorso utopico, se vogliamo, però di fatto poi è portato a compimento attraverso le musiche e le ricerche appunto di Maioli, addirittura proprio sulla ricostruzione di quello che potevano essere le musiche dei primitivi. E andiamo a prendere dal lavoro dei primitivi dell'elettronica, che dà proprio appunto il titolo a questo 451 frammenti sonori, e questo Concrete Music, anche qua un'idea di musica concreta che è tutta appunto dentro un linguaggio assolutamente particolare come quello di Futuro Antico. Thank you. autore antico, quindi disco storico, che appunto ha dato l'idea per questo 451, frammenti sonori, ovvero dei primitivi all'elettronica. Di fatto c'è tanto suono primitivo, nel senso appunto che intendevo prima, di originario, no? Con un'idea appunto di musiche che non potevano essere diversificate, come poi è successo in termini insomma di civiltà, ma soprattutto di formalizzazione di quella civiltà, e quindi nascita insomma di quello che è un'idea poi museale, se vogliamo, insomma, di musica, di quindi categorizzare anche le musiche, che anche qua non è il semplice appunto divertimento di scompaginare le pagine e andare insomma così esteticamente fuori dalle categorie, ma creare proprio un linguaggio che appunto bypassi o addirittura superi, sintetizzi poi quello che è il suono urbano, tecnologico, appunto dato dall'elettronica utilizzata anche in maniera superba, se pensiamo insomma anche attualmente, come questi riferimenti musicali, appunto di concrete music, titolo, ma anche insomma elaborazione di un loro insomma modo di intendere la concrete music, di intendere insomma le musiche in generale. Se pensiamo appunto a quest'oggi musicale, quante progetti tendono appunto a avere questa dimensione di tentativo di risintetizzare, se vogliamo, appunto un suono originario, primitivo, e appunto l'elettronica. Magari avremo modo anche nel prossimo 451 di trattare appunto una sorta di ritorno, no? Se vogliamo, dall'elettronica ai primitivi, ma già forse stasera, insomma, verso la fine sentiremo, seppur non è insomma un compositore di pelo insomma giovane, ecco, potremmo dire, ma di pelo sullo stomaco neanche molto, visto che viene dalla downtown, ma newyorkese della fine degli anni 70, ma ne parleremo appunto tra poco, con appunto futuro antico, quindi con quello che è il percorso di Gabin Dabiré del Burkina Faso, quindi con i suoi studi legati alle musiche di quelle terre, e studio delle musiche originari veramente, poi a quel punto anche non soltanto in termini mitici, insomma, di musiche che vengono dall'Africa, dal centro del mondo. Walter Maioli, che appunto accennavo prima, tra sperimentazioni insomma ardite con Actuala, Nadma, e poi appunto dentro una sperimentazione di fatto esistenziale, vitale, politica, con le varie comuni, e poi appunto il suo eccezionale percorso di etnomusicologo, e Riccardo Sinigaglia, che prima dicevo, probabilmente per fino all'altro ieri, fino a ieri anzi, conosciuto dai pochi per collaborazioni con forme nuove di cantautorato, ecco, italiane, tra l'altro anche espresse da lui, ma Sinigaglia inizia con Futuro Antico, continua con Correnti Magnetiche, fa album in proprio, lavori eccezionali negli anni 80 di ricerca, anni tra l'altro molto, molto distanti rispetto a certi tipi di ricerche, appunto più se vogliamo appunto in termini così di percorsi etnomusicali, o comunque di percorsi che vanno a dialettizzarsi con quello con appunto un filo rosso dato appunto da questo tipo di studi, ma il percorso è talmente particolare in Senigallo che già inizia appunto ad entrare in futuro antico col synth, quindi di fatto percorre questo percorso appunto, scusate, questo itinerario dal primitivo all'elettronica, appunto quasi ribaltando la cosa di fatto, insomma, eppure riesce a farlo, un percorso appunto eccezionale, anche per questo, con appunto una sintesi da futuro ad antico, eccezionale. E, beh, una delle autrici che proprio in quel periodo, fine anni 70, stava facendo dei lavori eccezionali, non soltanto in questo senso, anche proprio in senso generale dell'elettronica, subito tra l'altro con una portata immediata in termini di connessione con quello che erano le sperimentazioni delle avanguardie elettroniche, ma anche per certi versi certo suono cosmice, magari più composto, nel senso appunto più vicino alla composizione, tipo certo Klaus Schulz, ecco, potremmo pensare. E Laura Spiegel, Lori Spiegel, che appunto potremmo considerare più vicina, anche però più lontana per altri aspetti. Sì, è vero che adesso sta influenzando tra l'altro anche molte donne che appunto prendono il synth in mano, tra l'altro la stessa Caterina Barbieri, insomma, quella di Bologna, autrice veramente notevole di insomma, musiche per synth immaginari, esplosivi, esplosioni fantastiche in questo caso, o psichedeliche. Beh, devono tanto sicuramente, pur avendo un percorso molto, molto personale, a Lori Spiegel. Però di fatto, insomma, probabilmente in termini di sperimentazione e invece più ardita, ecco, se vogliamo, quindi forse anche più attuale. So che potrebbe sembrare un paradosso, forse lo è anche. Beh, sicuramente Futuro Antico invece sta dando, diciamo, più immaginativa, ecco, in termini musicali, quindi in questo senso lo vedo forse più vicino in termini appunto di sperimentazioni rispetto alla Spiegel, che, come dire, ha una continuità, ecco, questo suono da appunto l'avanguardia storiche, che però diventano, visto che è stata anche allieva di Max Matthew, diventano un qualcos'altro, ad esempio con la Susan Chani, che anche essa, insomma, però un po' più grande rispetto a Lori Spiegel, iniziava alla fine degli anni 60 proprio da quei laboratori legati alle musiche d'avanguardia e americane in questo caso, e comunque portando poi di fatto, traghettandole verso delle musiche che adesso potremmo considerare, insomma, psichedeliche sui generis, ambient in maniera appunto molto molto non divaga, e per questo anche forse più interessanti. Però insomma, la Spiegel poi di fatto ha un percorso eccezionalmente personale in questo Unseen World, va a trovare veramente mondi visibili che musicalmente vengono attraversati con una sensibilità eccezionale e poi un lirismo cosmico, che potremmo dire, che rende poi tra l'altro non soltanto questo Unseen World, ma tutti i lavori della Spiegel, pochi ma bellissimi tutti quanti, dei lavori di forte impatto emotivo. In questo senso anche viene recuperato in una certa qual misura un sentimento originale, nel senso appunto di originario, di primitivo, nel senso quasi di primario, potremmo dire. dire, ecco, beh, in questo senso veramente colpisce molto la musica, le musiche di appunto Loris Spiegel, che ce l'andiamo a prendere non a caso proprio da questo mondo invisibile, questi mondi invisibili, Unseen World, ma con proprio un vero e proprio percorso legato al passaggio da uno stato all'altro. Loris Spiegel da questo Ancient World, disco da poco ristampato, tra l'altro veramente una gemma, potremmo dire, venuta dal cosmo per certi versi, ma è un cosmo appunto che ci riporta per molti versi così a un'origine, perlomeno a un suono che si fa immagine, poi potremmo anche di fatto tentare, insomma, neanche tanto arditi, poi così immaginativi, che ci possono riportare ad esempio in quel di 2001 Odissea, no? Tra l'altro accompagnato dal continuum di vocale di Ligeti, che tanto ha influenzato minimalisti, anche molte dell'elettronica, le stesse appunto elettroniche utilizzate dalla Spiegel, in una chiave appunto così modernista, ma anche appunto con questa capacità, come accennavo prima, di toccare veramente profondità emotive, sentimentali, addirittura ideative per certi versi, se penso insomma appunto a questa lettura immaginativa, a questa associazione che potremmo fare filmica con 2001 Odissea. La scena è ovviamente non immediatamente iniziali, ma quelle insomma famose con gli ominidi che si fanno guerra, e quest'osso diventa, poi lanciandolo in cielo, nel cosmo, un'astronave appunto, e poi tutto quello che porta alla mente appunto quell'idea di origine, se vogliamo, legata appunto a quel monolite. E quindi anche a questa invisibilità, oppure una visibilità che comunque poi rende quasi accecante, quindi non possibile più da vedere, forse è anche questo insomma il mondo invisibile, mondi invisibili di Loris Spiegel. Prima accennavo appunto al termine della trasmissione di appunto questi dai primitivi all'elettronica. Beh, finiamo con Vito Ricci. Prima dicevo appunto che, anzi accennavo e basta, che uno insomma dei personaggi della downtown di Greenwich Village, in quel di New York, insomma, e soprattutto di quegli anni lì, della fine degli anni 70, un'epoca insomma decisamente creativa, sperimentale, anche per tanti versi insomma futur bohème, non so come considerarla, tanto cyberpunk, tanto anticipo di cyberpunk, come tanto punk deflagrante invece verso insomma una forma di nichilismo vissuto lì sul momento, e appunto invece cose che si spingevano insomma in un altrove, musicale decisamente interessante. Beh, Vito Ricci lavora in maniera piuttosto particolare. Troviamo un lavoro, andiamo a trovare un lavoro di un paio d'anni fa, Symphony for Amiga, quindi va sia all'origine, ma va all'origine insomma di uno strumento elettronico computeristico, insomma uno dei primi computer, l'Amiga, ci abbiamo insomma sui 40, ci ha giocato sicuramente, o comunque ci ha già avuto modo insomma di metterci le mani su. Chi non ce li ha di fatto insomma l'avrà visto, come uno degli oggetti così dentro l'immaginario storico vintage, ecco, computeristico, è piuttosto insomma intrigante l'Amiga. Beh, Vito Ricci appunto ha fatto una sinfonia a sua maniera, appunto con quell'approccio appunto da downtown newyorkese, proprio come dicevo prima un paio di anni fa, portando però appunto una l'elettronica così primordiale dell'Amiga verso sconfinamenti, verso la drone music. Non che non si faccia drone music col computer, ma sembra quasi che appunto si vada su una sorta di drone acustico, quasi appunto anche qua di monolite sonoro, che probabilmente confonde appunto tra elettronica, e tra l'altro un'elettronica anche appunto piuttosto tra virgolette rozza, di quella dell'Amiga, con invece un suono acustico che va su degli armonici piuttosto, tra l'altro, evocativi, ecco. Quindi in questo senso c'è un percorso da primitivo, dai primitivi all'elettronica. Concludiamo poi con un breve pezzo di Maioli insieme a Niro Dot Fortini, Taraxacum, anzi, sentiremo esecuzione di suoni campionati con l'aggiunta di filtri, dove proprio spiegano tutto nel lavoro appunto edito. Io vi lascio appunto, vi rimando al prossimo mercoledì, fate bravi, c'è il crowdfunding appunto di Città Fujiko, come accennavo all'inizio di trasmissione, e ciao, alla prossima.